Tante smorfie non son di gusto mio. E che c'ho da fare io? Non mi dovresti trovar un'italiana. Ho una gran voglia già per una di quelle signorine che dà martello a tanti cicisbei. Io servirvi vorrei, ma i miei corsari e l'incostanza del mar. Se fra sei giorni non me la trovi e sedi a far lo scaletro, io ti faccio impalar. Non occorre altro.

Io so fare differenza. soffrir, sì, sono stanca, sono stanca, sono stanca di soffrir, sì, sono stanca, sono stanca, sono stanca di soffrir, sì, di soffrir, sì, di soffrir. Sa sa sa sa, quel che sa. Quando doccia questa alma sarà, al mio

Un palo, addirittura, davvero che brutto affare.

ascolta, accedami, ma costei mi fai forzar, costei mi fai forzar, costei mi fai forzar. Ambione, nadia, troppe, costei, canto, so sotto il mio braio, che peccai che mi fuggi così.